Letture di Radio 24. Negli ultimi 20 anni, 2.400.000 studenti hanno lasciato il proprio paese per andare a studiare per qualche mese o qualche anno all'estero. Solamente lo scorso anno sono stati 200.000 gli studenti espatriati. La vita è altrove, diceva Milan Kundera, lo scrittore. La vita è altrove, hanno detto i 2,4 milioni di studenti europei che negli ultimi 20 anni se ne sono andati a studiare per pochi mesi o pochi anni in un paese diverso dal proprio, raddoppio secco dal 1980 a oggi. 200.000 in viaggio solo l'anno scorso per i progetti Erasmus o Leonardo dell'Unione Europea, ma anche 30.500 espatriati per frequentare stage nelle imprese e decine di migliaia di altri per gli accordi bilaterali fra stati e università, compresi molti finiti in Giappone, negli Stati Uniti, in Cina o in Australia, come gli studenti dell'Università di Parma, ingegneria gestionale, che partecipano a una classe internazionale fra Spagna e Stati Uniti, o quelli che trascorrono a Tokyo 4 mesi di corso linguistico e poi 8 mesi di stage in un'azienda, sponsorizzati dal Ministero dell'Economia giapponese, o ancora quelli che vanno a studiare per un anno il design o le energie rinnovabili in Finlandia, invitati dal governo di lassù. Una rivoluzione silenziosa, anche per l'Italia e anche negli atenei più antichi e illustri. Solo a Bologna, secondo una ricerca svolta dal Centro Alma Laurea, ormai il 13,9% dei laureati e il 18% nelle materie più specialistiche ha avuto un'esperienza di studio all'estero. In tutta l'Europa, sempre più anziana, gli uffici anagrafe certificano il calo dei giovani, ma parallelamente, con l'eccezione di alcuni stati, crescono le trasferte di studio all'estero. In qualche paese succede anche, come ha documentato il New York Times in un'inchiesta compiuta su un college britannico, che i professori consiglino agli allievi di espatriare per pagare meno tasse. Ma questa è un'eccezione. A Bruxelles, negli uffici del commissario europeo alla cultura, Andrew Lavassiou, la documentazione su questa gigantesca migrazione giovanile, che sciaborda fra l'Islanda e la Turchia e gli Stati Uniti, indica spiegazioni non dubbie. Prima il crollo del muro, poi la globalizzazione digitale, lo tsunami di internet, e sulla scia di tutto ciò la semplice scoperta che un passaporto può regalare cultura, snebbiare la testa. È un bene? È un male? È un drenaggio di cervelli? È un fatto. Tutto qui. La vita è, forse, altrove, e sembrano essere sempre di più quelli che ci credono. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Se il prof dice agli studenti andate all'estero, di Luigi Offeddu, dal Corriere della Sera di mercoledì 2 marzo. Letture di Radio 24. Hanno portato a casa 1.400 italiani da Tripoli, dove all'aeroporto hanno dovuto sfidare le manganellate della polizia di Muammar Gheddafi. Così l'unità di crisi ha portato a casa i nostri connazionali dalla capitale libica. Abbiamo le braccia blu per le manganellate. Uno di noi stava in testa sventolando la bandiera italiana e dietro c'erano gli italiani da evacuare. Poi chiudevamo la fila con un altro tricolore, racconta Roberto Paglioni, del nucleo avanzato dell'unità di crisi a Tripoli. 3 uomini e una donna, che con l'ambasciata e la Farnesina hanno portato a termine una missione da far tremare i polsi. Portare a casa 1.400 italiani e 400 stranieri dall'inferno libico, senza morti e feriti. I connazionali che riuscivamo ad imbarcare per l'Italia ci ringraziavano con le lacrime agli occhi. L'ultima evacuazione di gruppo è avvenuta 3 giorni fa con 40 italiani. Mi sono preso in braccio un bambino di 2 mesi proteggendolo come uno scudo umano, ricorda l'uomo dell'unità di crisi. Quando dovevamo salutarci, la mamma me lo ha ridato dicendo «Vai dal babbo». Nelle 2 settimane di rivolta in Libia, l'Italia ha riportato a casa 1.400 connazionali su 1.500. Quelli rimasti hanno la doppia cittadinanza o sono donne sposate con dei libici. All'aeroporto, per passare, bisognava ungere le guardie. Il prezzo fisso della mazzetta è di 300 dinari, circa 180 euro. Circola voce che per imbarcarsi su un catamarano approdato a Tripoli e raggiungere Malta chiedano la bellezza di 2.000 euro. Ogni tanto la polizia carica la massa umana degli immigrati africani in fuga all'esterno dell'aeroporto, travolgendo tutto. Una volta ci siamo trovati in mezzo, racconta Paglioni. Alcuni disgraziati per entrare si erano portati nelle valigie chiavi inglesi e mazze, nel tentativo di rompere i vetri dello scalo. All'interno, gli uomini dell'unità di crisi ricordano il lezzo, la gente che sveniva o faceva i bisogni nello scalo. Il nucleo avanzato inviato nei primi giorni di rivolta dalla Farnesina era guidato da Nicola Minasi, un giovane diplomatico veterano di Kabul che ha gestito sul campo tutte le ultime crisi dal terremoto di Haiti alla rivolta in Egitto. Ieri il team è rientrato in Italia. Nonostante le critiche, la missione è compiuta. Basta leggere i messaggi arrivati da chi è stato evacuato. Non so in quale situazione vi troviate ora, ma vi tengo nei miei pensieri e preghiere, scrive un italo-americano. La professoressa Laura Pallaro, insegnante di italiano alla scuola Al-Maziri di Tripoli, ringrazia per essere stata salvata all'aeroporto, dove si trovava in mezzo alla calca. Paola Lombardo ha telefonato piangendo quando l'unità di crisi le ha rintracciato il marito che sembrava disperso. Si sentono critiche infondate, scrive Giovanni Incerti Massimini. Forse il ricordo più bello del pugno di uomini che ha aiutato gli italiani a fuggire dalla Libia rimarrà questa frase: un grazie da Ismaele per avergli ridato il suo papà. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Così tre uomini e una donna hanno portato a casa 1400 italiani di Fausto Biloslavo, da Il Giornale di mercoledì 2 marzo. Esprimere la propria opinione in 140 caratteri. Questo è Twitter, il social network che sta educando vecchie e nuove generazioni alla comunicazione di oggi e del futuro. Piero Vietti, su Il Foglio, cerca di analizzarlo comparando lo stesso Twitter alla lettura tradizionale. Non siamo più in grado di prendere decisioni. Non riusciamo a concentrarci abbastanza a lungo per scegliere la cosa migliore. Troppe informazioni ci confondono. La colpa è della twitterizzazione della cultura, l'ultimo atto della rivoluzione che Internet ha portato nel modo di pensare dell'uomo contemporaneo. Con un lungo articolo di Sharon Bagley, Newsweek aggiunge un altro capitolo al dibattito: se e quanto il web ci renda stupidi. Il neologismo per descrivere la cultura in cui siamo immersi, twitterizzazione, arriva da Twitter, il social network nato 5 anni fa è diventato famoso negli ultimi tempi anche per il suo utilizzo durante le rivolte in Medio Oriente e Maghreb da parte degli insorti. Twitter dà la possibilità di scrivere su una propria pagina web, visibile da chiunque, brevi messaggi di 140 caratteri. Nello spazio di un SMS si può raccontare uno stato d'animo, un fatto accaduto, rimandare con un link a un articolo, un video, una foto. Contemporaneamente si può seguire chiunque nel mondo dica la sua sulla propria pagina, semplicemente cliccando sul bottone Segui sotto il suo account. Si accede così a un flusso continuo di opinioni, battute, riflessioni e commenti che, scorrendo sotto gli occhi di chi twitta, danno l'idea di un mondo mai fermo, con qualcuno che ha sempre qualcosa da dire. Come gli esercizi a scuola che ci insegnavano a riassumere un racconto in poche righe, Twitter sta educando una generazione a dire tutto, e quindi spesso niente, in poche parole. L'accusa di Newsweek è che questo cumulo di informazioni in realtà ci impedisce di decidere e agire in fretta. Che Internet, e più specificamente blog e social network, stia modificando il nostro cervello è evidente quando si legge, scrive Carr. C'è poi chi, come Joe Oshii, studente di filosofia premiato a Oxford con una borsa di studio, ammette che non leggo più libri. Vado su Google e posso assorbire velocemente le informazioni più importanti. Mettersi lì a leggere un libro interamente non ha senso. Se questo è un problema di chi i libri fino a qualche anno fa li leggeva senza fatica, a maggior ragione investe i nativi digitali, le generazioni che, abituate a PC e SMS, non sanno più usare il corsivo e la punteggiatura. Senza demonizzare Twitter e i suoi fratelli, strumenti fondamentali per rimanere aggiornati con fatti e avvenimenti più o meno significativi, c'è da registrare che forse dovremmo rivedere l'assunto per cui Internet è neutro, dipende dall'uso che ne fai. Con questo rischio, sperimentato, tra due individui che hanno letto lo stesso testo, uno al computer e ricco di link, l'altro su carta, Il secondo ricorda meglio che cosa ha letto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il professor Twitter di Piero Vietti da Il Foglio di mercoledì 2 marzo.